de mitjana vi. La bolia. Crixuda que pipa de cucai. La bolia. Guai una casa fan a l'heroi. La bolia. A escola no ce som mai putut dir. La bolia. Puxuria a la rindo d'estir. La bolia. A filia de rinda coca fa mi. La bolia. O guen neixerà su la polizia. La bolia. El signora bona sta chiù tranquil. La bolia. Nessuno chiù lo scippo putzà lì. La bolia. I ben pensanti votavano a dici. La bolia. I camorristi votavano a pezzi. La bolia. E si chielo votavano a messi. La bolia. La mezza vi continuano a morì. La bolia. Ad animo sola vizio mandolina. Tarantella canzone sole e mandolina. Navada samora tara luce fina. Napoli, Napoli, Napoli. Napoli, Napoli, Napoli. Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, abbandonata da tutti disprezzata, Magnelli c'è piaciuto, lavoro l'emigrata, vacca scassata, famiglie dispiegate a Torino, Milano, napolitana, terrone ignorante, magna do sapone, lavato con l'idrante, tornate in una casa, felice e contenta, c'è fatta prima le ande, non ne ho avuto niente, però sinceramente, dico sinceramente, se vuoi la mandà, che la macchina patente, ma in tuo parlamento, ci tengono sempre a mente, in tuo parlamento non si scordano mai niente, non si scordano ad esempio, curtinamente che la spazza sempre a faccia, della gente allora immediatamente dico immediatamente mannano in prota con una cricca e malamente giunto da Roma somma tutte nubiezza che in coppa prefettura va poi alla coppa munnezza giunto da Roma somma tutte nubiezza giunto da Roma ed è venuto a Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, e casa popola, ma somigliano, sono l'aria a distanza, come fa viaggiare, niente sicuro e niente precisa, con la vita stessa, con la stessa vita. Com a stessa vita.